Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Vediamo se ce la facciamo, buona domenica da Stefano Gallarini. Comincia forse il riposo del guerriero, sicuramente con una sorpresa per me e anche per voi. Sentite, la voce non c'è, ma non c'era proprio stamattina, era completamente azzerata, quindi la voce di un orco vi accompagnerà nel corso della puntata. Però forse tutto questo ha un senso, perché c'è sempre un senso nella vita, e siccome oggi parleremo di paure, forse la voce dell'orco serve proprio ad alimentare ovviamente la paura. Le 10 e 9 minuti, mi scuso con gli ascoltatori appunto per questa voce, ma cercheremo di far parlare ovviamente i tanti ospiti della giornata. Vi ricordo il numero come sempre per gli sms: 349 238 6666, e il numero verde, perché anche oggi alle 11.30, ecco, la musica con questa voce ci sta perfetta, e dicevo alle 11.30 c'è il mistero in 24 minuti, la possibilità di portarvi a casa fino a 1000 euro da spendere sul sito libreriarizzoli.it. dovete risolvere il mistero cercando di arrivare alla soluzione, che può essere o un personaggio oppure una notizia della settimana. Faccio fatica, ma si capisce. Ovviamente il numero verde 800 24 00 24, e il primo indizio di questa settimana, eccolo qua. Tutti qui i miei viaggi che pago. Si gioca alle 11.30, parliamo di paure, vi ho detto quali sono le paure, vediamo come poterle combattere, anche perché si sta avvicinando Halloween, una festa che noi fino a qualche anno fa proprio non conoscevamo per niente, che invece adesso ha cominciato a vivere intorno a noi tra feste e parchi di divertimento che allestiscono tutto il parco proprio per questo evento, e magari anche così momenti personali. Ancora non siamo al dolcetto scherzetto tipico degli americani, però forse arriveremo anche a questo. E visto che parliamo di paure, cominciamo con Ligabue, che devo dire un po' la voce come me oggi ce l'ha. Passano per non ripassare più, e il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Il riposo del guerriero. No, rido perché mi pigliate in giro, ieri ho fatto il karaoke, non ce la faccio. Marco Tanda, ciao, buona domenica. Ciao Stefano, buona domenica. Nessun karaoke, mi sono svegliato senza voce oggi, ma soprattutto questa voce dell'orco serve ad alimentare le paure di oggi, ovviamente. Beh, è abbastanza, come dire, affascinante il tono di voce che hai. Ma io penso che c'è qualcuno che dice, ma tu l'hai sempre così la voce, ma non è vero, ecco, adesso va bene leggermente rauca, ma qui è proprio l'assenza totale. Allora, Marco Tanda ha scritto un libro da pochissimo, si intitola L'armonia dilata l'efficienza, e Marco Tanda è un consulente coach aziendale. Allora Marco, la prima cosa che ti chiedo è il significato del titolo. Guarda, il libro intanto è un piccolo manuale, nello stesso tempo il racconto di un percorso evolutivo di cambiamento che porta attraverso lo sviluppo dell'armonia interiore, quindi un'approfondita conoscenza di se stessi, a vivere la vita personale e professionale in modo, speriamo, più appagante. Però il significato del titolo è riferito all'armonia in azienda, cioè l'ho preferito ad altri vocaboli più utilizzati e consueti come organizzazione e ordine, perché secondo noi, secondo la mia esperienza, in mancanza di armonia in azienda i termini organizzazione ed ordine assumono un significato poi che è puramente strutturale. Ecco, anche quindi scusami, vitalità. Certo, quindi se in azienda manca l'armonia anche l'efficienza se ne va a pallino, insomma. Ecco. Esattamente, perché sulla carta poi è un concetto piuttosto semplice legare armonia a efficienza, invece in azienda non lo è, perché sembra un concetto esattamente all'opposto. Noi leghiamo il concetto di armonia con efficienza attraverso l'organizzazione. Sembra strano, ma in azienda poi l'organizzazione riporta all'armonia, perché quando ricopriamo i giusti ruoli siamo presenti a ciò che accade attivando sistemi di controllo logici, mettiamo in atto, e questo è importantissimo, i processi di fiducia correlata alla messa in atto di funzioni e di deleghe. In quel modo favoriamo la professionalità e il talento delle persone. Ecco, solo che noi parliamo di paure oggi, perché in realtà il tuo libro parte da un presupposto, il fatto che il cambiamento porta sempre alla paura. Cioè noi spessissimo non cambiamo perché ci fa paura cambiare. In realtà forse dovremmo proprio imparare a non aver paura di questo cambiamento, perché un cambiamento può sempre portare, anzi dobbiamo avere quell'idea, cioè che il cambiamento, anche se apparentemente negativo, in realtà porterà qualcosa di positivo. Però la paura di cambiare è quello che ci accomuna sempre, vero? Esattamente, esattamente. Bisognerebbe fare, se mi permetti, su questo un breve accenno storico, ma anche sociologico, che ritengo interessante. Sì. Noi siamo generazioni che veniamo da padri e nonni che hanno vissuto le guerre mondiali, persone giustamente provate da continui dolorosi avvenimenti che in quel periodo sono successi, e poi stimolati al cambiamento dalle nuove tecnologie del tempo, il piano Marshall di allora che ci portò ai primi frigoriferi e poi i televisori, e poi un cambiamento votato alla stabilità e al benessere, no? In quel modo hanno sfruttato le opportunità del periodo, ma in un certo senso hanno anche imbrigliato il cambiamento entro schemi certi. Ecco, perché una volta che si è sereni con tutte le cose a posto, diciamo così, guai a cambiare, perché chissà cosa può succedere. Esattamente, esattamente. Oggi invece ci accorgiamo, ma anche grazie all'effetto della non guerra, vuol dire che la guerra c'è, ma i confini, come dire, geografici anche delle regioni da noi dell'Europa, e poi il cambiamento spinge, vediamo cosa accade in Medio Oriente, in Libia, anche attraverso i presupposti della guerra, questo è reale, però noi la guerra che per noi non abbiamo conosciuto, adesso è la paura dell'altro, la guerra interiore, la mancanza di dialogo, il disagio familiare. Non che queste cose non siano state conosciute anche in passato, ma nella società attuale hanno picchi sorprendenti, la paura del nuovo, della spinta a cambiare per diventare altro da quello che siamo, per effetto dei condizionamenti che abbiamo ricevuto, ha poi una reazione psicofisica conseguente. Ecco Marco, c'è una sorta di... cioè, da dove possiamo cominciare per cercare di combattere questa paura al cambiamento? Guarda, innanzitutto quello che io consiglio, ma viene poi dalle mie esperienze anche personali, è guardarsi dentro, iniziare da noi, iniziare dalle piccole cose, vedere su cosa noi facciamo resistenza rispetto al cambiamento, e di solito le resistenze sono quelle della vita di tutti i giorni. Il libro stesso, approfondendo questo argomento, parla di noi, delle domande che ci poniamo, del fortissimo desiderio che abbiamo di conoscere noi stessi attraverso l'altro, di confrontarci, di mettere tutto in discussione, e mettere tutto in discussione fa già parte del cambiamento. Ecco, quindi l'accettazione dell'altro sarebbe già in inizio, diciamo così, per cominciare a superare la paura del cambiamento. Quindi dobbiamo cominciare con le persone che abbiamo intorno a noi, quelle che magari ci fanno più paura per qualche ragione. Esattamente, poi bisogna tener conto anche che ognuno di noi custodisce all'interno una capacità incredibile di comprendere gli altri, di usare l'ascolto, di usare la comunicazione e l'ascolto come comunicazione, di osservare con distacco e con totale partecipazione anche quello che accade nella vita. Questi sono i presupposti per poi attivare all'interno di noi il cambiamento. Non è solito, ecco, attuare questo modo di comportarsi nei confronti di noi stessi e degli altri, ma è questo quello che noi vorremmo favorire. Insomma, dovremmo imparare questo per cercare appunto di non avere più paura di cambiare, ma anzi fare in modo che il cambiamento sia una crescita alla fine. Esatto. Sai, è molto facile, se come queste cose, è sempre molto facile raccontarle, dirle, consigliarle. Bravo. Però poi metterle in pratica è sempre un'altra cosa, eh? È difficile, però tutti, guarda Stefano, tutti intorno a noi in un modo o nell'altro parlano di cambiamento e poi hanno difficoltà a metterlo in atto. Adesso io non voglio fare riferimenti espliciti a ciò che sta accadendo in questo periodo anche alla nostra classe politica, no? Ma anche in modo più allargato alla classe politica europea. Non è pronta al cambiamento, si oppone adesso facendo resistenza, e la resistenza, questa è una legge fisica, disperde energia. Ecco, però basta, guarda, pensare, per non parlare di politica, pensiamo a quando è stato deciso di non poter più fumare nei locali pubblici, no? Esattamente. E sembrava potesse diventare un disastro. Mi ricordo, scrivevano di tutto, allora i proprietari di ristoranti e bar che dicevano non verrà mai più nessuno nel nostro locale. In realtà è una cosa che abbiamo immediatamente abbracciato tutti. Esatto. Anche i fumatori. Esatto. E che stiamo apprezzando tantissimo e che il mondo ci apprezza anche. Esatto. Per cui alla fine veramente la paura di cambiare è sempre molto forte, bisognerebbe solo sperimentare e capire dove si andrà. E a volte si va proprio nella direzione giusta, quindi questo è un esempio, insomma, che credo che sia calzante. Esattamente così. La cosa interessante che poi volevo citare anche agli ascoltatori è quello che è stato il nominato l'ideogramma cinese del 2008, nessuno forse o pochi lo sanno, ed è proprio quello che riguarda il cambiamento, l'ideogramma che raffigura il cambiamento. Sappiamo che gli ideogrammi cinesi rappresentano, no, un'immagine che possa evocare con precisione una situazione, stimolare, sì, certo, un processo di consapevolezza. L'immagine dell'ideogramma cinese del cambiamento è quella del sole che si contrappone alla pioggia. È proprio come dire, il cambiamento è una cosa che se affrontiamo porta quasi sicuramente un prodotto positivo. Dopo la pioggia verrà il sereno. Molto vicina a questa l'immagine, a quest'immagine il detto sufi, il sufismo, questo mi piace dirlo, è l'unica pratica mistica orientale di derivazione musulmana, che dice: quando il buio diventa ancora più profondo, l'alba non è lontana, che è verissimo. Eh sì, certo, quando insomma è proprio così, quando si è al limite del fondo bisogna risalire per forza. Marco Tanda, io ti ringrazio, ti saluto. Io ringrazio voi. Impariamo ad accettare i cambiamenti, assolutamente. Esattamente, lo auguro a tutti i nostri ascoltatori. E noi ce l'auguriamo per noi stessi. Grazie Marco. Alla prossima, di nuovo. L'armonia dilata l'efficienza. Enrico Volpe, ciao, buona domenica. Buongiorno, buongiorno. Allora, Enrico Volpe, non so come ha fatto, adesso ce lo facciamo raccontare. Ha scritto un libro intitolato Come si dice ho paura di, per esempio, adesso ne ho trovato uno, dov'è che ce l'ho qui? L'aulofobia. Adesso, Enrico, te la sei inventata tu l'aulofobia, perché mi dici che come si fa a avere paura dei flauti? Cioè, uno vede un flauto e dice: no, il flauto no, ti prego, preferisco il corno inglese. Come si fa a avere paura dei flauti? Allora, le paure sono delle situazioni di ansia estremizzata, coscia, diciamo, sì, che nascono alcune da esperienze vissute, magari legate a un ricordo sgradevole, a un momento brutto della vita di questa persona, che poi lo riproduce in termini fobici, in termini di paura, di angoscia, ma è legata a questa esperienza alcune. Altre sono legate a un fattore di personalità, come può essere un soggetto eccessivamente ansioso che, potenziando quest'ansia in maniera smisurata, determina queste angosce, queste paure. Ecco, certo, tu hai costruito questo glossario che dovrebbe contenere tutte le paure conosciute, ce ne sono di veramente molto sconosciute. Poi hai raccolto anche alcuni nomi di personaggi famosi, sì, che inaspettatamente, magari perché noi pensiamo sempre che i personaggi famosi siano scevri da tutto, no? Paure non ne hanno mai, invece scopriamo che ne hanno tante particolarmente curiose. E dopo, adesso resta qui perché c'è la pubblicità, poi continuiamo a parlare. Voglio solo dire agli ascoltatori, anzi alle ascoltatrici in particolare, che se così mai doveste desiderare David Beckham, perché comunque notoriamente è un tipo che tante donne desiderano, beh, sappiate che anche lui ha una paura molto particolare, poi vi dico quale. Il riposo del guerriero. Stiamo parlando, parlare è un eufemismo oggi, di paure nel riposo del guerriero. Tra l'altro c'è un momento di grande paura in Malesia perché Simoncelli è caduto, ha perso il casco, è stato investito da Edward e Valentino Rossi. Speriamo che poi vada tutto bene, però l'hanno dovuto portare via. Per cui momento sicuramente di grande paura, e sentiremo dopo che cosa sarà accaduto in questo momento, appunto perché non sappiamo niente, mi ha visto solo essere portato via Simoncelli e basta. Enrico Volpe invece al telefono, autore del libro Come si dice ho paura di, è un glossario di fobie con personaggi storici. Vi ho lasciati con una fobia di David Beckham, quindi a tutte le ragazze in ascolto, nel caso voleste fidanzarvi, lui è già sposato ma non si sa mai, con David Beckham, sappiate che lui ha paura del disordine, quindi se lasciate così in giro qualcosa potrebbe arrabbiarsi molto e scappare di casa, quindi lo prenderete per sempre. Allora, si chiama ataxofobia, questa è la paura del disordine. Enrico, senti, com'è cominciato il tuo lavoro, ovvero com'è cominciato a raccogliere tutte le fobie per cercare poi di mettere in ordine alfabetico e raccontare nel tuo libro? Questo nasce un po' dalla mia professione, io sono un neuropsichiatra che lavora a Napoli, insieme all'editore Guzzolini abbiamo organizzato questa libro che necessitava dal punto di vista terminologico dare un po' di chiarezza, perché come vedrà nel libro molte cose sono ripetitive, che si possono usare i vari termini per vari tipi di fobie. Voglio precisare solo questo, che la fobia, la paura è comune a tutti gli esseri umani, non è che la paura sia una condizione patologica, e quando diventa fobica, quando diventa sine materia che diventa fobia, diventa patologica, allora bisogna tener conto che sia un fatto negativo, ma la paura è fisiologica, e questo lo voglio chiarire per chi ci ascolta. Aver paura è una condizione umana, necessaria in certi momenti, perché ci fa diventare più prudenti, meno spericolati. Il problema è quando questa paura diventa patologica, allora diventa fobia, che è una paura sine materia. Cioè, ecco, Enrico, sei d'accordo con quello che diceva Marco Tenda, che comunque che prima diceva che bisogna imparare a non aver paura del cambiamento invece? Assolutamente sì. E bisogna, la terapia della fobia è un allenamento, un esercizio che bisogna fare quotidianamente per superare questa angoscia. Maggiormente abbiamo paura di questi cambiamenti, sicuramente produciamo più fobie, di qualunque tipo ovviamente. Ecco, ho scoperto dal tuo libro che Madonna ha la paura dei tuoni e delle tempeste, esatto. Si chiama brontofobia. Brontofobia, questa è una paura in verità che hanno anche i bambini, spesso per i tuoni, che poi può persistere in età adulta. Teniamo conto per esempio che ci sono delle fobie cosiddette tra virgolette fisiologiche. Nel bambino per esempio la paura dell'abbandono della madre è una fobia fisiologica, la paura del buio, la paura del cane, sono tutte fobie fisiologiche legate al periodo particolare dello sviluppo di questo bambino, che è un periodo abbastanza fragile per cui realizza queste angosce, ma poi vengono superate. Quando nell'adulto invece rimangono, allora diventano patologiche. Certo, senti, io l'ho letto dal tuo libro che Abraham Lincoln aveva una fobia, io non pensavo mai potesse esistere una fobia del genere, si chiama caliginefobia, ed è la paura delle belle donne. Esattamente. Sì, questa è una delle cose che curiose che rientrano in queste che sono state trovate nel libro. Cioè, effettivamente, paura del paura delle donne, ma più che paura, lui aveva il complesso di non riuscire ad approcciare belle donne, sì, per cui non si avvicinava e aveva creato questa fobia. Questi sono i meccanismi della mente, del nostro cervello, che sono capaci di realizzare queste distorsioni, perché in realtà poi paura delle donne non bisognerebbe avere. Beh, certo, in generale, ovviamente. Senti, quella è una paura più di natura prestazionale, ecco, diciamo, la paura di non essere all'altezza di una bella donna fa nascere questa fobia. Ecco, ma alcune paure nascono dai personaggi famosi che avevano determinate fobie e quindi da lì poi sono state codificate o esistevano anche prima che il personaggio famoso, perché diciamo questa è proprio una storia. No, assolutamente anche prima. Poi sono state, diciamo, rintracciate nei vari personaggi, ma esistevano già da prima sicuramente. Quindi prima di Lincoln c'erano altri con la caliginefobia, ovviamente. Intanto, intanto voglio, scusami, dire agli ascoltatori che la gara in Malesia è stata cancellata dopo appunto Simoncelli, l'incidente che ha avuto Simoncelli. E senti, qual è tra i personaggi storici che hai un po' raccolto, Enrico, quello che più ti ha colpito con la fobia più strana o quella più imprevedibile? Un po' non mi aspettavo personaggi come Mussolini, ecco, che sa, aveva una tracotanza e una capacità di affrontare le cose in maniera abbastanza sicura. Ma spesso la tracotanza spesso nasconde proprio paura. Anzi, molto spesso per le si sicura attraverso l'uso di succedani come sono l'alcol e le droghe per superare questi attacchi fobici. Molte di queste persone che usano queste sostanze sono dei fobici che tentano attraverso queste sostanze, alcol o droghe, di superare l'attacco di panico, la paura di quell'oggetto. Molte persone non vanno in aereo, se noto che una quantità enorme della fobia dell'aereo, e non prendono l'aereo, magari limitano la loro capacità professionale per non riuscire ad usare l'aereo. Questi sono dei limiti gravissimi per alcune persone. Sicuramente. Senti, Johnny Depp soffre di coulrofobia, cos'è? La coulrofobia credo che sia, adesso non le ricordo tutte, mi stava facendo una domanda un po' tutte non me le ricordo i termini perché le ho raccolte, ma credo che sia di una paura di avere, di arrossire, qualcosa del genere. No, è la paura dei pagliacci, eccola qua. No, non me la ricordo. Immagino, perché insomma i bambini sono abituati con quei pagliacci tremendi che così. Alcuni sono terrificanti, sì, e indubbiamente hanno potuto realizzare questo, ma il pagliaccio normale non dovrebbe. In Italia infatti anche insomma una famosissima catena di hamburger che ha il pagliaccio come elemento distintivo, come personaggio, in Italia è stato tolto perché hanno scoperto che in Italia proprio quella figura lì non piace, non so come mai, la leghiamo sempre a qualcosa. Allora, se volete sapere di quale fobia voi siete affetti, possiamo dire così, tipo l'acnidofobia, che è la paura degli spaghi, che non sono gli spaghetti, vero? È proprio lo spago, immagino. Lo spago, sì, la funi. Oppure l'acnidofobia, la paura di andare a letto, perché chissà che cosa mi accadrà se vado a letto. Insomma, se siete curiosi di capire quale potrebbe essere la vostra fobia e magari associarla a un personaggio famoso, allora il libro di Enrico Volpe, Come si dice ho paura di, glossario delle fobie con personaggi storici e VIP affetti. Grazie Enrico Volpe, buona domenica. Ciao, grazie. Francesca, venimi in aiuto, parla tu, fai qualcosa per la mia voce. Buongiorno, ho paura di me stesso oggi, dell'orco galla che appunto, vabbè. Allora Francesca, noi abbiamo parole che ci fanno paura per un verso o per l'altro. Sì, tanto per cominciare una curiosità, se l'italiano avesse dovuto continuare il latino scritto che conosciamo, a questo punto dovremmo dire pavore e non paura, quindi ho pavore di, termine che peraltro è attestato anche nell'italiano antico. Ma possiamo usarlo anche normalmente, posso dire ho pavore senza rischiare di essere preso per matto, ormai il termine desueto non si usa più, non si deve usare. È molto colto e letterario, quindi a seconda del contesto puoi decidere se usarlo o meno, oppure dargli una connotazione scherzosa che poi magari spiegherai appunto per evitare di essere preso per pazzo. Sicuramente. E per rispondere invece in maniera più pertinente alla domanda, sì, da sempre nelle diverse lingue ci sono state delle cose che hanno generato paure, per cosa intendo dire delle cose esterne alla lingua, la cui conseguenza ha portato alla tabuizzazione, quindi io ho paura perché faccio il cacciatore, ho paura del lupo, ho paura dell'orso perché temo che nominandolo mi si possa manifestare davanti e mi possa mangiare. A questo punto non dirò lupo, non dirò orso, ma dirò il signore del miele, il dominatore della foresta, quindi utilizzerò una serie di perifrasi o delle parole alternative che mi permettano di nominare una certa cosa ma non direttamente, quindi di attenuarne il potere, di attenuarne la forza. Una sorta di rito scaramantico comunque, ecco. Beh sì, sì, diciamo che stiamo parlando di sostituti eufemistici, cioè dove per eufemismo intendo dire appunto una forma buona, no? Qualcosa che mi permette di riferirmi a qualcosa senza però nominarla direttamente. Quello che magari non ci aspetteremmo è che anche una parola come mai in alcune culture è stata una parola soggetta appunto a tabù, e il fatto stesso che la parola stessa mano ha sostituito quello che era il termine più antico, mano è una parola di ambito giuridico, e si è deciso la forza di mano, perché la mano permette di compiere tante operazioni, è un elemento, un simbolo di potere. La paura appunto di nominare la mano col suo nome ha portato a un'evocazione attraverso un termine differente. In alcune lingue questo termine è la palma, quindi si dice palma per non dire mano, perché così so di che cosa sto parlando pur senza nominarlo. Ecco, senti, adesso non mi metto in difficoltà, Francesca, ma ci sono delle parole difficili da pronunciare per cui hanno cambiato, e la parola è cambiata proprio perché nella difficoltà di pronunciarla ha cominciato a essere diversificata, diciamo così, semplificata, e quindi alla fine ce la ritroviamo, ma semplicemente perché era troppo difficile dire quella originale. Adesso non so, una ricerca forse che dovresti fare, non vorrei... Ci sono dei casi in cui questo accade a livello di uso, penso alla semplificazione del nesso ps che l'italiano contiene in parole di origine greca, ad esempio tutte quelle che hanno a che fare con la mente. Molte persone non riescono a dire psicologia, non riescono a dire psiche. Mettono la I, psicologo. Esattamente, certo. quel fenomeno lì si chiama anaptissi, ovvero l'inserimento di un suono I che non ha nulla a che vedere con la forma della parola, quindi psicologo. Oppure c'è chi al contrario ricorre all'elemento vocalico ma semplifica il primo elemento consonantico trasformandolo in un'altra S, e quindi psicologo con una doppia S. Ecco perché, così si semplifica la vita. Grazie, sì. Grazie Francesca, buona domenica. Sì, ciao a voi, in bocca al lupo grazie. Ma tornerà sicuramente la voce. Fables, ciao, buona domenica a te. Fables è il nostro esperto. Buongiorno Stefano, ciao, la tua voce. Hai visto che bella, è da orco, perché oggi appunto le paure, sono già pronto per Halloween, basta che mi metta a salutare qualche bambino e subito questo urlerà, ovviamente. Allora Fables, da buon esperto di guerriglia marketing, credo che il guerriglia marketing spesso abbia usato le paure e le fobie per pubblicizzare qualcosa o per far parlare di sé. Sì, esatto, ad esempio ho fatto spesso utilizzo dei fantasmi, o meglio delle credenze che vanno dietro ai fantasmi. Ad esempio in Canada, per la promozione di una piccola emittente televisiva in occasione del lancio della diretta, diciamo, del primo thriller all'interno della programmazione, che cosa succede? Che all'interno di una casa in stile vittoriano viene improvvisamente visualizzata l'immagine di un fantasma che scorge appunto dalla finestra. Questo fantasma è presente all'interno di questa casa in stile vittoriano per circa 3 settimane di seguito, viene avvistata in circa 40 posizioni differenti. Contemporaneamente su YouTube spunta il video di una ragazza che cerca proprio di entrare all'interno di questa casa, sale quindi le scale dell'appartamento fino ad arrivare a sopra, dove si vede per circa un secondo l'immagine della bambina, di questo fantasma della bambina che si rivolge appunto verso la telecamera. Continuano a passare dei giorni, quindi l'attenzione ovviamente attorno al fenomeno cresce sempre di più. E tutti pensavano fosse un fantasma vero. Insomma. Tutti pensavano fosse un fantasma vero, invece null'altro era che un ologramma appunto di un fantasma. Tant'è che a 3 settimane dopo l'avvistamento del primo giorno, diciamo, la bambina esce nuovamente allo scoperto dalla finestra, mostrando appunto un cartello ai presenti e dicendo appunto: spaventati ancora di più con Screen TV, il nuovo canale, la nuova emittente televisiva. Ecco, quindi la pubblicità di un canale. Senti, molto velocemente, abbiamo proprio 30 secondi. Sì. Ci vuoi raccontare cosa è successo in quel bagno di Hamburgo dove all'improvviso si spegnevano le luci? Esattamente, anche qui per la promozione di un emittente televisivo hanno appunto fatto affidamento alla paura, diciamo. Quindi che succede? All'interno del bagno di un locale entra una persona, si sta appunto sciacquando le mani, improvvisamente si spengono tutte quante le luci del bagno, quindi uno inizialmente pensa magari di essere normale, si sono normalmente spente le luci del bagno, invece intorno spuntano le macchie rosse, come se fossero appunto delle macchie di sangue, schizzi di sangue, manate, insomma la persona si gira attorno a cercare di capire che cos'è, improvvisamente da una parte c'è una scritta che ti dice guarda cosa le altre persone non possono guardare, 13 Street, il canale di suspense ed action, quindi anche qui insomma hanno fatto ricorso ad una delle tante fobie che è appunto quella del buio. In particolare un bel sistema per farsi pubblicità. Grazie Fables, ciao. Grazie, gli aggiornamenti sul traffico, vi ricordo il sito fra l'altro di Fables che è blogguerriglia.it, gli aggiornamenti sul traffico, e poi ho preparato per voi una sorpresa qualche giorno fa, infatti sentirete che la mia voce in quel caso sarà perfetta, ma quello che sentirete tra poco non è in diretta. Il riposo del guerriero. E per parlare di spettacoli dedicati al tema della paura abbiamo un narratore d'eccezione, Arturo Bracchetti, ciao, bentornato. Ciao a tutti. Allora Arturo, tu che giri il mondo non solo per i tuoi spettacoli ma anche per andare a vedere quelli degli altri, perché dagli altri si può sempre e si deve sempre imparare e anche per curiosità, hai scovato uno show particolarmente intelligente, brillante e assolutamente pauroso, vero? Certamente una delle cose più sorprendenti che ho visto ultimamente è stato Play Dead, che è ancora in questi giorni in cartellone al Players Theatre di New York, un teatrino off-Broadway, che mi ha veramente sorpreso. Play Dead si arriva in un teatro vuoto, piccolino, scena vuota. A un certo punto il presentatore, l'attore, arriva in scena e comincia a dire che questa sera ci saranno delle sorprese, molte delle quali avverranno al buio. Poi sapete qual è il buio teatrale? Blum, spengono le luci e rimangono quelle di sicurezza accesa. Beh, questo è il buio solito. Invece il buio che vivrò io è un buio differente. E partono anche le luci di sicurezza. E ci si ritrova al buio più totale e la voce sua continua, vedete, al buio possono succedere tante cose, il vostro vicino vi può toccare, la gente comincia a urlare perché secondo me ci sono dei complici in giro che cominciano a fare delle cose, potete infilare un dito nell'orecchio del vicino eccetera eccetera, ritorna la luce, tutto normale, poi dopo un po' lui comincia a parlare di personaggi strani che sono vissuti per esempio a Brooklyn, uno che uccise per esempio 20 bambini, allora tira su un bambino del pubblico e gli dice in questa scatola ci sono i ricordi di questo personaggio, vuoi sceglierne uno? Il bambino poveretto infila la mano, tira fuori la mano, con un urlo, la mano piena di sangue. E dice forse non avremmo dovuto disturbarlo, il personaggio, e la scatola comincia a trasudare sangue, proprio cola sangue, la rimette a posto. Poi, momento seguente, tira su uno spettatore del pubblico, gli fa togliere le scarpe e l'orologio e lo fa stendere in una specie di vasca da bagno che c'è lì in mezzo alla scena. Poi di nascosto prende un bel criccone e comincia a dargli delle mazzate tremende con schizzi di sangue e pezzi di brandelli di carne che partono in tutti i sensi. Alla fine svuota in questa vasca un bidone di acido solforico e la vasca viene riversata in scena vomitando questo scheletro fumante e quindi lo spettatore è sparito. A quel punto ci si domanda, ma l'anima, lo spirito è ancora tra di noi? E comincia a fare una specie di seduta spiritica in cui evoca questo spettatore scomparso. Gli dice, chiediamogli delle cose che magari nessuno di noi può sapere. Ecco, chiede alla moglie, può fare una domanda personale, il nome della mamma, una domanda che solo lui può rispondere. E lei, la moglie, dice, sì, voglio sapere il nome del mio cane. E lo spirito scrive su una lavagna, Lola. E quindi appare questo sorprendentemente il nome del cane. E quindi la serata diventa sempre più dark, perché cominciano, il presentatore comincia a evocare degli spiriti di personaggi illustri, quale Eusapia Palladino. Questa fu una medium che divenne molto famosa all'inizio del secolo scorso, prima a Boston e poi a New York, perché nei salotti bene della New York del tempo faceva apparire gli spiriti, gli ettoplasmi, parlava coi morti. Calcoliamo che lei arrivava sempre in kimono, poi alla fine della seduta spiritica era sempre mezza nuda, quindi va a sapere se in queste sedute spiritiche c'era anche una componente anche così erotica, c'era la scusa di toccare vicino al buio, o la vicina al buio, e quindi comincia a evocare lo spirito di Eusapia Palladino. E tira su un altro spettatore, lo fa coricare su un tavolo, gli tira sul t-shirt, gli tira via dallo stomaco dei brandelli di carne, del sangue, un po' come un'operazione filippina, e poi lo copre con un drappo. E a questo punto, piano piano, da sotto, dallo stomaco dello spettatore, una forma comincia ad alzarsi, scopre il lenzuolo e dalla pancia dello spettatore esce fuori una donna completamente nuda, coperta di sangue, che salta giù dal tavolo operatorio e si dibatte in scena, per poi essere coperta da un lenzuolo, si trasforma in una vecchia sempre nuda, coi seni cadenti, coi capelli bianchi, coperta di sangue, e poi sparisce definitivamente dalla scena. A quel punto si scatena un pandemonio, la luce parte e noi spettatori sentiamo su di noi schizzi d'acqua, va a sapere, persone che ci toccano, vediamo sopra le nostre teste volteggiare delle forme, degli ectoplasmi, va a sapere, fluorescenti. Tutto dura qualche minuto, tra urla ovviamente del pubblico, perché anche io tra il pubblico, anche io sono abituato agli effetti speciali eccetera, quando c'è il buio c'è poco da fare, abbiamo paura, più forti di noi, il buio si riempie di tutte le nostre fantasie più torbide, più tremende, e alla fine la luce ritorna. La persona del pubblico ritorna in un'evocazione spiritica che lui fa un quarto d'ora dopo, quindi praticamente sparisce per un quarto d'ora e poi dopo arriva dal fondo della platea questa forma, al buio sempre, questa forma sembra un mantello ma non si capisce bene, quando poi si scopre è lui e a questo punto gli ridà le scarpe e l'orologio che gli aveva prestato prima. Il presentatore dice: è tornata la luce, forse è tornata anche la sicurezza, va a sapere, prende una lampadina, questa lampadina si accende, vola sul pubblico e sparisce sopra la platea. È stato divertente, ma soprattutto pieno di emozioni belle forti. Era Arturo Bracchetti che ci ha raccontato di Play Dead, spettacolo, avete sentito, direi horror, ma assolutamente anche magico. Le informazioni, per chi avesse la fortuna di andarci, su www.playdead.nyc, che sta per newyork.com. Il riposo del guerriero. Alle 11.10 certo non è facile andare avanti dopo la notizia di Simoncelli, ma proseguo ovviamente il riposo del guerriero. Vi ricordo alle 11.30 il mistero in 24 minuti, 800 24 00 24. Oggi stiamo parlando di fobie, grazie per i tanti ascoltatori che così mi stanno facendo l'imbocca al lupo perché la voce ritorni, ma speriamo che sia così, insomma indubbiamente la voce ritornerà. E qualcuno ha scritto anche le proprie fobie. Io quella dei bottoni di Susanna, se non mi sbaglio, non l'ho trovata, però ho trovato la fobia di Daniela, che ha fobia degli squali, si chiama selacofobia e Cristina Ricci pare ne sia affetta. Allora, siccome parliamo di paure, siccome Halloween si avvicina, ho pensato di fare una carrellata veloce dei parchi a tema che esistono in Italia per capire cosa hanno preparato i parchi proprio per i giorni di Halloween, quindi il 31 ottobre, 1 novembre, vediamo un po' come hanno allestito i parchi per questa festa che ormai tutti ovviamente tra virgolette festeggiano e celebrano. Fabio Micabile per il Movieland Resort, siamo in questo momento sul Lago di Garda. Ciao Fabio, buongiorno. Ciao Stefano, buona giornata. Scusami, buona giornata. La voce a questo punto il Movieland che cosa ha preparato per i giorni di Halloween? Allora, sì, torna difficile anche per me parlare perché mi ha appena scosso. Lo so, anche perché so che sei un grande appassionato. Per cui... Guarda, veramente mi cogli un po' così. Comunque, parliamo di lavoro e di tempo libero. Un po' Movieland, diciamo, nel DNA l'Halloween ce l'ha sempre, nel senso che noi, posso dire, abbiamo la prima Horror House nel parco di, nei parchi divertimenti, che è stabile tutta la stagione, quindi un percorso dell'horror che va a rievocare i principali film horror con degli attori che intervengono e spaventano, diciamo, i nostri visitatori durante la, la loro visita. Quindi ecco, nel DNA c'è sempre questa vena di Halloween. Oggi ad esempio, che un po' tutto il mese di ottobre è in preparazione alle giornate di Halloween, alla notte del 31, per esempio oggi abbiamo una giornata con uno spettacolo che si chiama Skifidus, e uno spettacolo dove coinvolgiamo dei nostri ospiti, dei nostri guest, e gli facciamo assaporare un menù un po' al limite, diciamo, del disgustoso, ecco. Ma è tutto vero, ma sarà tutto finto, sembra disgustoso ma è buono, ma diciamo credo. Sono alimenti, sì, commestibili, nel certo senso, abbiamo della bava di lumaca con gorgonzola, latte di capra, ti faccio immaginare, gelatina di sangue di caprone, tutto naturalmente commestibile ma combinato in un modo che fa, ecco, pensare un po'. Ma c'è qualcuno che si avvicina a un menù così oppure? Ma guarda, abbiamo aperto le adesioni 15 giorni fa e abbiamo dovuto selezionare, ecco, perché abbiamo selezionato non più di 20 persone in due spettacoli, quindi 10 in uno, 10 nell'altro, in questo teatro, poi naturalmente condito con tanto di balletti, presentazione, certo, preparazione del piatto, diventa, diciamo, simpatica, ecco. Va bene. Tra l'altro, sì, l'avevo provato in prima persona. Allora, se volete spaventarvi nella Horror House e spaventarvi anche da un punto di vista del cibo, che è un'idea, devo dire, nuova, e c'è il Movieland, il sito è movieland.it. Grazie Fabio, ciao, buona domenica. Ciao, buona domenica a tutti. Grazie, ciao. Passiamo a Giovanni Scafoglio. Ciao Giovanni, buongiorno. Ciao Stefano, di la verità, sì, la voce così non è un problema, adesso sta a posto per essere più tematizzato. No, infatti l'Orco Galla si chiama oggi, certo, sì sì, sono tutto verde e sto aspettando Fiona da qualche parte. Allora, siamo a Mirabilandia invece, in questo momento, quindi siamo in Romagna, vicino a Ravenna. E Giovanni, che cosa avete preparato per Halloween? Lavoriamo su due livelli di divertimento e di paura. C'è tutta la prima parte dell'ingresso, dove divertiamo con il freno a mano tirato, diciamo, quindi più andiamo più su scherzi che devono divertire i bambini e le famiglie. Poi invece c'è tutta un'altra area, assolutamente horror, dove abbiamo due percorsi al buio, quindi tu fai dei percorsi completamente al buio. È una sorta di horror house. Ecco. Sì, sono delle horror house più splatter in questo caso. Una si chiama Fobia, quindi in ogni stanza affronti una delle tue paure. E l'altra che abbiamo fatto appositamente per Halloween si chiama il matadero. Sì, e cosa succede? Cosa succede? Ti picchiano, ti bastonano. E sarebbe poco quello, eh? Forse potrebbero... Ti spaventiamo e cerchiamo di arrivare al limite della tua. Ecco, io non so perché la gente ha voglia di tutto questo, io sto bene così, non vedo, però va bene, anche perché ricordiamole, comunque un modo per divertirsi ed è molto, sì, bello fare queste cose in compagnia, anzi la compagnia ci vuole perché da soli veramente ti viene l'ansia. Grazie. Chi viene da soli, però diciamo che in famiglia il divertimento da questo punto di vista è più forte, ecco. Assolutamente. Grazie Giovanni, Mirabilandia, mirabilandia.it è il sito. Tra poco ci sposteremo a Roma in Valmontone con il Rainbow Magic Land, prima però gli aggiornamenti sul traffico. Il riposo del guerriero. Stiamo andando a scoprire nei parchi a tema italiani che cosa si sta preparando per la festa di Halloween. C'è Stefano Cigarini per Rainbow Magic Land. Siamo in Valmontone, vicino a Roma. Ciao Stefano, un parco nuovo. Buongiorno a te Stefano. Tra l'altro un parco nuovissimo, da poco aperto, credo un annetto, meno di un anno. Parco forse nuovissimo, aperto da tre mesi praticamente. Quindi figurati. E ancora, diciamo, in fase di rodaggio. Cosa avete preparato per Halloween? Dunque, intanto il parco, perché è ottobre, Halloween, ma c'è un parco che ha 36 nuove attrazioni, di cui alcune mai viste in Italia e in Europa, e quindi diciamo il Rainbow Magic Land oggi è una scoperta per moltissime persone, avendo appena aperto. Poi nello specifico il parco è fortemente tematizzato con draghi, streghe, castelli, ramarri, diciamo c'è proprio un colpo d'occhio che è veramente molto forte. Dopodiché ci sono degli spettacoli ad hoc, nel parco c'è un gran teatro da 800 posti con uno spettacolo che si chiama Dolcetto Scherzetto, che è ispirato alle tradizioni di Halloween, e un secondo spettacolo invece che si chiama Demonia, che viene fatto nel Palabaleno, che è un palastudio da circa 2000 posti, invece in cui vengono fatte, diciamo, come dire, animazioni, giochi circensi e attività che in qualche modo sono da paura. Ecco, quindi niente horror house al buio, ma invece più spettacoli per Rainbow Magic Land. Il sito è rainbowmagicland.it. Grazie Stefano, ciao, buona domenica. Ciao, ci spostiamo, torniamo anzi sul Lago di Garda con uno dei parchi più famosi d'Italia, che è anche più vecchi, che è Gardaland. Ciao Paolo Viarengo, buona giornata. Eccoci qua. Ciao, buona Paolo, giornata a tutti. Scusa voi. Anche te per la mia voce che oggi non c'è, è una voce da paura. Ma che cosa avete preparato? Cosa avete preparato per questo giorno, su questi giorni, quelli dedicati ad Halloween? Sì, allora noi innanzitutto bisogna dire che già una decina d'anni che noi festeggiamo questa ricorrenza. Da noi un Halloween abbastanza lungo, in quanto inizia già all'inizio del mese di ottobre, quindi noi da inizio ottobre siamo stati aperti tutti i weekend con questa tematizzazione Halloween che ha così coinvolto tutto il parco, quindi sia i viali del parco, le attrazioni, i teatri, gli spettacoli, ma soprattutto anche il nostro hotel. Noi abbiamo questo hotel dove a ottobre così dedichiamo questa tematizzazione di Halloween. È un appuntamento, come dicevo prima, che ricorre da tanti anni, che crea molto entusiasmo. Ogni anno vediamo che il pubblico accorre sempre più numeroso. Diciamo che gli americani ci hanno cucinato questo Halloween che ci piace molto anche in Italia, quindi anche il nostro pubblico direi che vive in modo divertente questa ricorrenza. Assolutamente, la paura in questo caso deve divertire. Grazie Paolo Viarengo, Gardaland.it il sito, ciao, grazie. E concludiamo con invece un altro parco che è Millandia Leolandia. Siamo vicini a Bergamo, tra Milano e Bergamo, a Capriate per l'esattezza. Massimiliano Freddi, ciao. Ciao Massimiliano. Ciao e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, il vostro Leo, tra Leonardo, cioè l'inventore Leonardo, il vostro leone, che cosa ha preparato per Halloween? Beh, intanto Minitalia Leolandia quest'anno compie 40 anni, quindi abbiamo festeggiato tutto l'anno e concludiamo proprio la stagione celebrando nel modo più degno per i 40 anni anche Halloween. Beh, intanto è il quarto anno, quindi anche questo numero 4 che ritorna, dovremmo giocarcelo all'8 credo, 4,40 a fine anno, per cui abbiamo popolato il parco di oltre 4.000 ragni e pipistrelli, ma la vera novità, oltre alle 400 zucche, abbiamo creato una zucca gigante di oltre 12 metri, la novità più importante è che a dare il benvenuto a tutti gli ospiti del parco c'è il grandalbero delle 40 zucche. Ci siamo inventati questa storia per cui da noi le zucche crescono sugli alberi e questo albero un po' fatato ospita proprio le 40 zucche, di cui quella più grande ha anche una grandissima candelina di compleanno al posto del picciolo. Ecco, quindi siete gli unici che hanno le zucche, nel senso che gli altri fanno più paura, invece la zucca è una cosa un po' più vicina a noi. A me poi viene sempre in mente il tortello di zucca mantovano, ma quello è un'altra cosa. Che viene servito ai nostri ristoranti proprio in questi giorni. Quello è anche il risotto alla zucca. Benissimo. Ma considera che il nostro parco è dedicato alle famiglie. Certo, certo, certo. Da noi al Leowin, come lo chiamiamo, certo. Noi, non fa assolutamente paura. Grazie Massimiliano Freddi, ciao, buona giornata. Grazie mille. Ricordo che il nostro sito è minitalia.com per chi vuole più informazioni. L'hai detto tu, va benissimo. Grazie ancora Massimiliano. Attenzione, perché dalla settimana scorsa abbiamo ripreso anche il nostro momento dedicato ai videogiochi. Niente a che fare con la paura, però questa volta siamo di fronte a uno straordinario simulatore di guida. Video game. Prendete posizione, allacciate le cinture di sicurezza, infilate i guanti e giù con l'acceleratore. È arrivato Forza Motorsport 4. La serie Forza Motorsport, in esclusiva per Xbox 360, ha sempre avuto l'ambizione di rendere l'esperienza di guida sempre più vicina a quella reale. Il nome Forza deriva dal fatto che all'epoca della prima edizione il direttore del progetto era anche un grande appassionato di auto e di Ferrari in particolare. E quando si trovava a Monza a vedere le gare, sentiva che il pubblico gridava sempre «Forza Ferrari!» e, ignorando il fatto che l'aggettivo avesse un significato, credeva che la parola «forza» fosse legata al marchio Ferrari. E così, non avendo i diritti per usare il marchio nostrano per il suo simulatore di guida, lo chiamò «forza», convinto che il pubblico avrebbe capito che si trattasse di un titolo legato al mondo delle auto. Quindi una curiosità divertente, perché in realtà Forza con le auto niente ha a che fare. Però, questioni sul nome a parte, Forza 4 è stato giudicato il miglior gioco di guida in assoluto e perfetto, sia per un pubblico esigente che chiede un simulatore a tutti gli effetti, sia per chi invece si trova a giocare occasionalmente e vuole godersi solo l'esperienza di un titolo ricco di dettagli e assolutamente molto coinvolgente. La modalità di gioco principale è quella World Tour, che consiste in 290 eventi all'interno di oltre 100 circuiti sparsi per il mondo. World Tour ti fa intraprendere un viaggio verso i più spettacolari circuiti al mondo, che affronterai a bordo delle auto più veloci in circolazione. Per ogni gara potrete decidere se cambiare gli assetti, fare delle modifiche, ricevere degli aiuti per essere guidati nella traiettoria o cambiare la modalità di guida. E ogni evento completato sblocca ovviamente le gare superiori, vi farà guadagnare soldi virtuali e vi dà la possibilità di migliorare la vostra carriera per gareggiare con auto sempre più potenti. Su ogni circuito hai a disposizione diversi eventi. Quelli visualizzati sono adatti alla tua auto attuale o a quelle presenti nel tuo garage. In Forza Motorsport 4 i dettagli sono molto curati. Le auto replicano ogni tipo di danno, dalla strisciata sulla carrozzeria all'accartocciamento dell'auto intera, rendendo tutto ancora più vero. Inoltre, chi possiede Kinect potrà godere della periferica Microsoft in tre modi diversi. Potrà guidare l'auto semplicemente muovendo le mani come se si avesse in mano un volante. È una modalità data ai più piccoli, perché non permette di fare altro se non sterzare, visto che anche l'accelerazione in questo caso è governata dalla console. Potrà cambiare anche la visione dall'auto girando semplicemente la testa, come nella realtà, quindi guardando a destra e a sinistra. E potrà utilizzare invece il corpo per muoversi intorno alle auto, come se ci si trovasse in un salone, aprendo le portiere o il cofano, toccando il cruscotto oppure sedendosi al volante. La quarta versione di Forza Motorsport supera se stessa in termini di giocabilità, cura dei dettagli e personalizzazioni. Un titolo da 10 lode che permette anche moltissime sfide in rete con un massimo di altri 15 giocatori. Per quanto riguarda la classifica dei giochi per console più venduti della settimana, ai primi 5 posti troviamo in modo alternato i due titoli che da sempre si contendono il primato dei migliori simulatori di calcio. Per tutte le console, FIFA 12 e Pro Evolution 2012, con un leggero vantaggio di FIFA su Pro Evolution. Per tutte le vostre curiosità, scrivete a videogiochi@radio24.it. Formaggio Gran Moravia. Sulla pasta o stuzzichino è piacere sopraffino. Vi presenta Il Gastronauta. Davide Paolini, guarda, la mia voce è sempre più lontana ad esserci. Ciao Davide, oggi stiamo parlando di paure, e parliamo di paure alimentari, che penso che siano molte, purtroppo. Beh, mi lasci prima di tutto così fare un pensiero a Simoncelli, di cui ero tifoso. Ero tifoso perché era romagnolo come me, nato a poco distante da dove sono nato io. Vabbè, veramente mi ha colpito questo fatto. Comunque, paure alimentari sono tante, perché ad esempio la viaria, la mucca pazza, sono state tantissime le paure. Ogni tanto ci sono, e secondo me molte volte sono paure veramente create, perché la viaria poi alla fine si è dimostrato che era ben poca cosa. La mucca pazza è ancora un mistero, soprattutto in Italia sembra che ci sia stato un morto solo, ma non si sa se è stato dalla mucca pazza, eppure per 2-3 anni abbiamo vissuto questo incubo. Quindi credo che le paure veramente alimentari siano tante, però molte volte sono gli allarmi che sono più forti delle paure, nel senso che vengono così segnalate questi pericoli, poi in realtà tutto viene trasformato in un qualcosa di poco conto. E qualche volta ti dirò che io ho avuto l'impressione che queste paure siano state trasmesse ad hoc, probabilmente, per tanti motivi. La mucca pazza, addirittura la Gran Bretagna si è ricostruita il patrimonio zootecnico con questa paura, che poi aveva sparso in giro per il mondo. Questo è interessante come visione. Perché com'è? Dico, è una visione interessante questa, è un modo... Andrebbe analizzata la situazione per capire se fosse veramente così, verrebbe da pensare parecchio, ecco. Ma guarda, i dubbi sono sempre stati tanti, anche durante quando c'era questo SOS, da molti ricercatori, da molti scienziati, erano fatti di dubbi. Ma la Viaria, se i radioascoltatori ricordano, se tu ricordi, veramente l'Italia, cioè, è stata lanciata, poi non se ne è più saputo niente, perché probabilmente non era assolutamente una cosa molto ma molto seria. Quindi credo che sì, le paure sono tante, però molte volte secondo me le paure sono fatte ad hoc. Certo, ci sono stati anche casi ovviamente dove sono fondate, però anche molti create secondo me per secondi fini. E bisognerebbe infatti dopo anni andare a fondo di queste cose, andare a vedere appunto questi due fenomeni, cosa c'era dietro. Secondo me si scopriranno delle cose molto interessanti. È interessante, ci hai fatto così, ci dai una visione della cosa diversa da quella solita, e varrebbe la pena davvero pensarci. Grazie Davide, ci sentiamo domenica prossima. A domenica. Buona domenica a te. Tra poco giocheremo con il mistero in 24 minuti, 800 24 00 24, ma prima c'è la nostra redazione. Il riposo del guerriero. Alle 11.37 cominciamo il nostro mistero in 24 minuti, per voi ci sono 1000 euro. Un mistero in 24 minuti. Fino a 1000 euro da spendere su librerierizzoli.it, la soluzione come sempre... una notizia della settimana, oppure un personaggio, qualcosa di particolarmente conosciuto. Più indizi ascolterete, più il premio si abbasserà. Il numero verde 800 24 00 24, e partiamo subito con il primo indizio di oggi. Eccoci qua, questo è il primo indizio ed è Claudio Baglioni con Tutti Qui. Rino da Pisa, ciao, buona giornata, buona domenica. Ciao, buongiorno. Ciao Rino. Darei subito la risposta. Allora, siamo ancora a 1000 euro, Rino, la tua risposta. Niente, in settimana c'è stato il ministro dell'industria francese che ha inviato per sbaglio un messaggio a tutti i suoi amici di Twitter, un messaggio un po' piccante invece che alla persona interessata. Vedi, a volte succede, quando si sbaglia con i social network diventa veramente un disastro. Grazie Rino, ciao, buona domenica, ciao. Giuditta da Milano, buongiorno. Buongiorno. Ciao Giuditta. Ciao, invece io mi riferisco all'indagine su D'Alema, sì? Sui voli low cost che gli sono stati offerti. Tu dici tutti qui? Tutti nella... qui i viaggi che ho pagato. Che gli hanno pagato. Che gli hanno pagato. Grazie Giuditta, ciao, buona domenica. Ciao, buona domenica anche. Allora, chissà, la risposta potrebbe essere anche arrivata, ma lo si scoprirà soltanto al 24esimo minuto. Carlotta da Torino, buongiorno. Buongiorno. Carlotta, siamo ancora a 1000 euro. Avevo pensato anch'io ad Alema, quindi ascolterei un secondo indizio. Siamo al secondo indizio, 500 euro. Amore mio, come farò a rassegnarmi a vivere? È proprio io che ti amo, ti sto implorando. Aiutami a distruggerti. Eccoci qui Carlotta, questo era il secondo indizio, Michele Zarrillo, con 5 giorni. Mannaggia, sono disorientata a questo punto. Allora io potrei lasciarti pensare, dare il traffico e poi mi dai la tua risposta. Vuoi far così? Grazie. Ragiona su, vabbè, sul titolo, ti aiuto. Un mistero in 24 minuti. Allora io oggi dovrò ubriacarmi, perché tutti mi stanno scrivendo dovresti bere grappa con il miele, ma non è così semplice, sono in palliativi, ci vuole un pochino di tempo, ma tutto andrà a posto. Allora Carlotta, la tua risposta, ti è venuto in mente qualcosa? Purtroppo purtroppo no, non, proprio non mi viene in mente niente. Ti devo salutare, grazie. Mi dispiace, grazie. Grazie a te Carlotta, ciao. Ti ringrazio. Enzo da Reggio Emilia, ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno. Allora, due indizi, 500 euro, che cosa vuoi fare? Proviamo a chiederne un terzo, dai. Ok, scusa, rido perché mi hanno scritto: sembri Parenzo quando fa Bossi. Ecco qui. Vabbè. Allora, terzo indizio: 300 euro. Vivere non è facile. Mancano 5 minuti alla soluzione del mistero. Allora, questo è il terzo indizio: vivere non è facile. Enzo. Il nostro. Ecco, la tua linea fa come la mia voce oggi. Enzo, l'abbiamo perso, è andato giù purtroppo. Olga da Piacenza, buongiorno. Olga. Niente, Rosanna da Roma, sì. Rosanna, pronto? Pronto, buongiorno. Ciao Rosanna, buongiorno. Terzo indizio, vivere non è facile. Ma praticamente l'hanno già detto, i viaggi di D'Alema, posso aggiungere che sono cinque. Viaggi. Per... Rosanna, ma non mi hai lasciato neanche parlare, Rosanna. Beh, è vero che oggi se non parlo è meglio, però ti avrei detto che non hanno ancora indovinato, per cui... Non siamo sulla strada giusta. Cosa devo fare, Rosanna? E allora che facciamo? Ascoltiamo un altro indizio. Vuoi ascoltare un altro indizio? Scendiamo a 200 euro. Arriva Romeo trafelato e le grida: il mio amore sei tu. Ma qualcuno gli dice di andar via e di non riprovarci più. E l'unico suono che rimane quando l'ambulanza se ne va, e Cenerentola che spazza la strada in via della povertà. Famosa canzone di Fabrizio De André, via della povertà. Rosanna. Sono un po' spiazzata. Proviamo con Sarkozy, la nascita della figlia di Sarkozy, e lui era fuori, era in viaggio. Grazie Rosanna, ciao. Buongiorno. Nicola della provincia di Bologna, buongiorno Nicola. Buongiorno. Allora Nicola, io rimango sul primo indizio. Aspetta, allora facciamo una cosa, ascoltiamo i quattro indizi che abbiamo scoperto fino a questo momento. Tutti qui i miei viaggi che pago. 5 giorni che ti ho perso. Quanto freddo in questa vita. Vivere non è facile. Mentre io e la mia signora ci affacciamo stasera su via della povertà. Tutti qui Baglione, 5 giorni Zarrillo. Vivere non è facile. Vasco Rossi, via della povertà De André. Ecco i 5 indizi, cerchiamo di metterli insieme. Nicola. A me è venuto in mente la scomparsa del poeta Zanzotto, già col primo indizio. Grazie Nicola, ciao, niente, buona domenica. Niente. Doriano dalla provincia di Padova, Doriano. Sì, ciao. Ciao, allora. No, io avevo pensato alla liberazione di Shalit dopo 5 anni. Grazie Doriano, ciao. Ok, grazie. Buona domenica. Cerchiamo di mettere insieme gli indizi perché secondo me... Carlo da Pavia, buongiorno. Buongiorno. Dunque, io avevo pensato anch'io a Sarkozy, la Bruna e la figlia, la figlia, però ma, non è possibile ascoltare un altro indizio? Abbiamo l'ultimo, no, non c'è più tempo perché fra 10 secondi scade il tempo, purtroppo. Allora tiro una cosa così che non c'entrerà nulla sicuramente: la morte di Gheddafi. Grazie Carlo, infatti non c'entra nulla purtroppo. Che rabbia, che rabbia. Allora, la risposta giusta erano i 2 giorni di sciopero totale in Grecia. Tutti qui perché la Grecia erano tutti proprio in piazza. 5 giorni perché è durato, a parte 2 giorni di sciopero, però era il 5° sciopero generale della Grecia. Vivere non è facile perché i problemi sono tanti. Via della povertà, sapete perché? E il 5° indizio avrebbe aiutato, devo dire, molto, perché sarebbe stato Atene, per cui avreste dovuto arrivare alla soluzione. Mi dispiace, speriamo che domenica prossima vada meglio. Grazie come sempre a Giorgio De Luca in redazione, in assistenza Paolo Corleoni in regia, e grazie a voi per aver ascoltato la voce dell'orco, che speriamo non ci sia più domenica prossima. Buona settimana da Stefano Gallarini.